Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Buongiorno, anche se forse il buongiorno non è esattamente corretto, visto che non sappiamo esattamente in quale momento stiate ascoltando questo podcast. Comunque, questo è il podcast di Effetto Giorno. Io sono Simone Spezia e in questa puntata cercheremo, come faremo tutti i giorni, di riassumere un po' quali sono le notizie della giornata, pescare alcune delle cose più interessanti che abbiamo mandato in onda nel corso della puntata di oggi. Siamo in diretta, come sapete, tutti i giorni dalle 13 alle 14, dal lunedì al venerdì, e aggiungeremo qualcosa, una bonus track o quello che volete voi. I nostri contatti, se volete scrivermi anche per consigli, idee, quello che volete, effettogiorno@radio24.it, oppure c'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Le notizie di oggi naturalmente ci raccontano di quello che è successo in Grecia, della formazione del nuovo governo che sta arrivando naturalmente, delle reazioni dell'Europa, e poi ce ne sono molte altre naturalmente, a partire dalla situazione a Kobane. Siamo sul confine turco-siriano, dove ci sono i curdi che, come sapete, da mesi stanno combattendo, stanno cercando di cacciare l'ISIS, ossia il califfato, da quella città. Ebbene, Kobane sarebbe stata presa dai curdi, sarebbe stata liberata. Queste le notizie che stanno circolando in queste ore. Ci occuperemo, a proposito di esteri, anche di Ebola. Abbiamo degli aggiornamenti interessanti dalla Guinea, dove c'è anche un medico italiano del quale ascolteremo la voce. E poi gli altri temi sono il nuovo scontro tra il governo e i magistrati. Abbiamo intervistato in Effetto Giorno il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. C'è la richiesta dei pubblici ministeri per Schettino, il comandante della Costa Concordia, l'ex comandante della Costa Concordia. E poi un'altra storia, una storia che arriva da Castel Volturno, dove due consigliere comunali, spinte anche dal sindaco, hanno finto di essere prostitute e hanno adescato delle persone. Nel momento nel quale si fermavano le macchine, si avvicinava lo stesso sindaco con tanto di fascia tricolore a spiegargli come funziona la raccolta differenziata. Era una sorta di opera di sensibilizzazione. Era una sorta di opera di sensibilizzazione anche ad altri temi. Ne abbiamo parlato proprio con una di queste due consigliere comunali. Iniziamo però dalla Grecia e sentiamo la corrispondenza della nostra Valeria De Rosa, che abbiamo inviato sul posto ad Atene. In questo momento io mi trovo a Exarchia, che è da tutti definito il quartiere anarchico di Atene. Sono vicina a uno dei tanti ambulatori gratuiti che hanno rappresentato una solida base per Syriza, che pur non avendo messo il cappello su questa rete di assistenza gratuita sanitaria, ne è stata comunque l'anima per quasi 2 anni. Dunque si sapeva che Tsipras avrebbe dovuto trovare un alleato per il suo governo, lo dicevi poco fa, l'accordo è stato trovato questa mattina. In realtà già questa notte il quotidiano Katimerini aveva twittato che l'accordo con i greci indipendenti era stato trovato, formazione di destra, si tratta di una costola di Nea Democrazia, uniti contro il memorandum europeo con Tsipras, sono divisi però dalla battaglia contro l'immigrazione, su cui i greci indipendenti sono molto duri, e questo potrebbe creare non pochi problemi a Tsipras. Tsipras che ha detto no a Potami, di per lì è sembrata una scelta strana. Potami è la formazione di centrosinistra che è emersa durante il 2014, che è capeggiata da questo giornalista che prima faceva parte della TV pubblica, poi è entrato nella TV privata, e che comunque è spalleggiata da un potente magnate dei media locali, e forse per questo Tsipras ha voluto prendere le distanze. Ovviamente tutti i quotidiani oggi titolano sulla vittoria di Tsipras, che però dobbiamo anche specificare non è proprio quella sinistra radicale nel senso ortodosso del termine che noi possiamo intendere, e infatti l'alleanza con la formazione di destra lo dimostra. Ci sono, come si diceva, anche le reazioni europee, a partire naturalmente da quelle delle istituzioni europee, passando per Berlino e passando per i leader politici di vari schieramenti. Sono arrivati degli endorsement, per così dire, a Tsipras da inaspettati, da luoghi inaspettati, da luoghi politici inaspettati, tra cui lo UKIP di Farage e il Fronte Nazionale di Marine Le Pen. Ci ha raccontato tutto Anna Migliorati. Diciamo che dopo il suo paese Alexis Tsipras ora dovrà convincere in qualche modo anche l'Europa. Nel pomeriggio l'Eurogruppo si riunisce per discutere di flessibilità, anche aggiungiamo per i conti italiani, perché ci siamo anche noi comunque ad avanzare richieste, ma di fatto si parlerà del futuro della Grecia. In questi minuti c'è un prevertice tra il Presidente della Commissione Juncker, il Presidente del Consiglio europeo Tusk allargato al presidente dell'Eurogruppo e al presidente della BCE Mario Draghi. Il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, entrando, ha lasciato la porta aperta. È stato già fatto tanto per Atene, ha detto, ma poi ha aggiunto: li aspettiamo per lavorare con loro. Linea più morbida a cui si associa Berlino, che parla anche più apertamente di un'opzione possibile, concedere ad Atene tempi più lunghi per ripagare il debito. La sostanza è che proprio perché con oggi non si parla più di campagna elettorale, ma di un governo greco con cui discutere nel concreto, la partita è di fatto tutta aperta. Non a caso c'è già stato un primo contatto tra l'Europa e Tsipras. Nella notte a telefonare al leader greco è stato il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. Tsipras è un pragmatico, ha detto Schulz, sa benissimo che dovrà fare dei compromessi sia nel suo paese sia esternamente. Come a dire, insomma, che alla fine un accordo si troverà. D'altra parte anche a Bruxelles un accordo conviene, visto l'asse inedito che si prospetta, simile peraltro a quel che si vede ad Atene. In queste ore ad esultare per la vittoria di Tsipras con i toni più accesi sono i partiti euroscettici, come il britannico di Farage, che ha twittato: inizia il poker con la Merkel, ma anche la destra tedesca proprio in casa della Merkel, e poi il Front National di Marine Le Pen, che ha parlato anche lei questa mattina ad una radio francese. Je me réjouis de la gifle démocratique monstrueuse que le peuple grec. Uno schiaffo democratico mostruoso che il popolo greco ha dato all'Unione Europea, l'avete sentita, così esulta da destra la Le Pen per la vittoria greca della sinistra. Kobane, si diceva, come vi dicevamo all'inizio, Kobane è il luogo dove si sta combattendo una battaglia importante, quantomeno simbolicamente, al confine fra Turchia e Siria. Questo ci ha raccontato Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che nei mesi scorsi era anche stato a Kobane, al quale abbiamo anche chiesto di sentire se c'erano conferme, perché come sapete è sempre difficile naturalmente prendere contatti con questi luoghi e avere conferme dirette. Spesso bisogna far riferimento a ONG, osservatori per i diritti umani, in questo caso l'osservatorio per i diritti umani in Siria. Gli abbiamo chiesto, insomma, di verificare quali fossero le notizie che avevamo, le certezze che avevamo. Sentiamo. La certezza è che il 90% della città comunque è in mano ai curdi, i quali hanno anche riconquistato una posizione, una postazione strategica anche sulla strada per Aleppo, quindi indica che sono in grado comunque di portare il califfato anche intorno alla città. Questo è fondamentale per poi non essere di nuovo stretti d'assedio e tagliare le linee di rifornimento del califfato. Certo, Simone, questa la notizia della riconquista di Kobane sarebbe una notizia eccezionale rispetto alla situazione che abbiamo visto alcuni mesi fa, a ottobre, quando praticamente i curdi erano in una trincea dove rischiavano di essere spazzati via. In questi giorni in cui si parla tanto dell'Europa, questo borgo siriano è il vero forse centro della resistenza europea, non solo perché è al confine della Turchia, paese cardine alla NATO, ma perché questi uomini e donne hanno difeso i valori dell'Europa di libertà, di indipendenza e laicismo contro l'oscurantismo delle orde del califfato, e l'hanno fatto un po' contro tutto e contro tutti. E ci spostiamo in Guinea adesso, a Conakry, nell'ambito di un progetto di sensibilizzazione su Ebola che Vita sta portando avanti assieme all'Istituto di Medicina Tropicale di Anversa. Cos'è l'Istituto di Medicina Tropicale di Anversa? È quello che ha scoperto il virus nella Repubblica Democratica del Congo nel 76, e l'Associazione delle Radio Libere Guineiane in collaborazione con Medici Senza Frontiere. Katia Caramelli ha intervistato e ha sentito sulla situazione Joshua Massarenti. Già in due occasioni, l'ultima volta accaduto attorno a ottobre-novembre, l'epidemia stava andando indietro, vista il numero di casi di persone infettate dal virus Ebola si stava calando e dunque presagiva, come dire, l'inizio di una sconfitta di Ebola, e invece a dicembre c'è stato di nuovo un picco elevatissimo. Nelle ultime settimane è di nuovo diminuito, però diciamo che le ONG, così come l'OMS e le autorità guineane, sono sempre in stato d'allerta, perché è un virus molto imprevedibile. Uno dei modi di contagio sono i funerali, cioè i morti che vengono toccati dai parenti. Dunque basta che un funerale non si svolga nelle condizioni in cui dovrebbe svolgersi oggi, in un contesto come quello di Ebola, con parenti che toccano come dire, il defunto, e di nuovo l'epidemia riparte con, in un giorno solo, 15 casi che saltano fuori. La sensibilizzazione e le campagne di informazioni sono ancora molto importanti, perché c'è ancora molta reticenza da parte della popolazione locale in alcuni casi, e addirittura delle campagne di disinformazione. E siamo alla politica italiana che si compone di tante cose, si compone sicuramente dell'apertura della settimana che condurrà al primo voto, ai primi voti sul Presidente della Repubblica, sul Quirinale, sul prossimo inquilino del Quirinale. C'è stato il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha riunito tanto i deputati quanto i senatori del Partito Democratico e gli ha detto qual è la sua strategia, quale ritiene che debba essere la strategia del Partito Democratico. Nelle prime tre votazioni, quelle che richiedono una maggioranza qualificata, il PD voterà scheda bianca, dopodiché si darà un nome secco e non una non tre nomi, non una rosa di nomi, ma un nome secco sul quale poi andare a votare. Tra le altre cose, Pippo Civati, della minoranza del Partito Democratico, ha proposto ufficialmente Prodi. Vedremo come andrà a finire. Ma c'è un altro fronte che riguarda il governo e che riguarda i rapporti di Renzi con i magistrati, che sono tornati ad essere piuttosto tesi dopo l'inaugurazione dell'anno giudiziario, una serie di attacchi che il Presidente del Consiglio ha ricevuto, e lo stesso Presidente del Consiglio ha reagito contrattaccando, in particolare ancora una volta sul tema delle ferie dei magistrati. Questa mattina ospite a Mix 24 era il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, che ha parlato anche di autorevolezza dei magistrati, della necessità che la magistratura appunto recuperi autorevolezza. Noi abbiamo fatto sentire questa voce, poi ne abbiamo parlato con Maurizio Carbone, che è il segretario generale dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Occorre urgentemente recuperare quell'autorevolezza, quel prestigio della magistratura con fatti e comportamenti concreti e con politiche che pongano il tema giustizia finalmente tra le grandi priorità nazionali. Ha sentito cosa dice Legnini, Carbone? Insomma, dà l'impressione di dire la magistratura ha perso autorevolezza. Ma guardi, noi lamentiamo in realtà che questa autorevolezza è stata messa in discussione anche da atteggiamenti e messaggi di delegittimazione nei confronti della magistratura. Noi abbiamo proprio lamentato il ritardo nelle riforme che da tempo chiediamo, e invece sono stati mandati dei messaggi delegittimanti, quasi come se la colpa dei mali della giustizia fossimo noi magistrati. E noi a questo ci siamo ribellati e abbiamo risposto. E i magistrati non hanno colpe, secondo lei, Carbone? Ma guardi, il problema è un altro. Non si può dire che i ritardi o la lunghezza dei processi siano colpa della presunta negligenza di noi magistrati, quando i dati che vengono forniti dall'Europa indicano i magistrati italiani tra i più produttivi in Europa, al primo posto per la definizione dei processi penali e al secondo posto per quanto riguarda lo smaltimento dell'arretrato civile. Questo significa che non siamo noi il problema o la nostra presunta negligenza, ma bisogna incidere seriamente sulle procedure e sulle risorse. Continuare a dire che il problema siamo noi, quando oggi negli uffici giudiziari italiani mancano 9.000 cancellieri, è un dato enorme che porterà a brevi alla paralisi totale dell'attività giudiziaria, allora a questo bisogna rispondere e non con slogan che vogliono ancora una volta banalizzare e, ripeto, additare noi magistrati come responsabili di un sistema di cui invece siamo vittime, e sono vittime soprattutto i cittadini. Senta, le ribadisco la domanda che le ho fatto quando poi mi ha dato questa risposta: non ci sono anche delle colpe dei magistrati in tutto questo? Sì, guardi, ma allora, come in ogni categoria possono esserci anche delle colpe nostre. Il problema è che in questi anni si è voluto sempre e solo colpevolizzare noi magistrati, dando un messaggio assolutamente sbagliato. Ci si nasconde l'inefficacia di certe riforme con delle scorciatoie. È troppo facile dire è colpa dei magistrati perché i processi sono troppo lunghi, quando non si riesce a fare una riforma sulla prescrizione e tanti processi vanno in fumo per colpa della prescrizione. E ora la storia da Castelvolturno. Siamo in Campania, due consigliere comunali che... cosa hanno fatto? Si sono, per così dire, travestite da prostitute e hanno iniziato ad adescare clienti sulla Domiziana, una strada della zona, una delle strade che attraversa la Campania. Era un modo per sensibilizzare anche lo Stato, il governo, sul fatto che da questo punto di vista ci sono pochi controlli, e poi c'era il sindaco che interveniva e faceva una cosa curiosa. Ce lo ha raccontato Anastasia Petrella, che è una delle due consigliere comunali che si è prestata a questa iniziativa. Arrivava il sindaco in realtà a spiegare un piano di raccolta differenziata, per far vedere che noi eravamo lì per sensibilizzare sulla raccolta differenziata e non per prostituirci, quindi a dimostrazione che anche una ragazza che aspetta l'autobus deve essere importunata. E immagino che ci sia la volontà anche di segnalare qualcos'altro, non solamente la raccolta differenziata, perché mi sembrerebbe un po' forte come scelta. È assolutamente un pretesto per accendere i riflettori su un problema che il territorio vive quotidianamente, quello della prostituzione. Biglietto da visita all'ingresso di un territorio con una domiziana piena di prostitute non è un'immagine che può passare per questo territorio. È un territorio che ha bisogno di controllo per la sua morfologia e per le sue problematiche, e è stato un modo per accendere i riflettori, per chiedere aiuto allo Stato e alle istituzioni. Alle istituzioni su tutto questo. Tra l'altro voi avete girato anche un video di tutto questo, forse ne possiamo sentire un brevissimo passaggio. Vabbè, comunque eventualmente i fazzolettini usati vanno nell'umido, diventa sempre il sedimento, il profilattico invece è il residuo. Okay? Invece i fazzolettini non usati bianco vanno nella carta, va bene? Buon procedimento. E questo è il sindaco che naturalmente spiega la raccolta differenziata. Però vorrei capire da lei, Petrella, come si è sentita e cosa ha provato in questa esperienza. È stata un'esperienza a dir poco singolare. E le sensazioni sono state tante, dalla paura, nonostante fossimo circondate tra virgolette da persone che, però stare un'ora e mezza sulla strada a impersonare un ruolo che fortunatamente non ci si addice è stato davvero difficile. È stata una scelta non fatta a cuor leggero, sicuramente, e avere gli occhi delle persone addosso, la mistificazione del corpo, anche se per una finzione, è stato duro. Senta, e come hanno reagito i clienti, i clienti mancati a questo punto, evidentemente, nel momento nel quale scoprivano poi che non eravate prostitute? Inizialmente la maggior parte sono scappati. Appena vedevano il sindaco con l'arrivo delle telecamere, scappavano. Infatti anche dal video si evince una serie di buongiorno, perché dicono buongiorno appena arriva il sindaco e scappano. Alcuni si sono fermati e hanno anche assistito alla spiegazione, un po' interdetti ovviamente, perché non avrebbero mai pensato di trovarsi in una situazione del genere. Direi che è veramente tutto. Vi ringrazio per aver scaricato il podcast di Effetto Giorno, che, come avete capito, da questa settimana cambia, è qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Non è la mera riproposizione della trasmissione andata in onda alle 13, stiamo cercando di fare qualcosa di più pensato ed è un work in progress, siamo in corso d'opera, quindi se avete buone idee datemele, effettogiorno@radio24.it. mi potete anche contattare su Twitter se volete, Simone Spetia, si scrive con la T, c'è la pagina Facebook della trasmissione, insomma sapete evidentemente come fare. Non mi resta che ringraziarvi per aver scaricato questo podcast e naturalmente ci sentiamo domani.